Ciao, capo tuo. Guarda, dove sei adesso? Adesso sono vicino a casa mia. Sono alla chiesa di San Michele, già. Ok, ti devo entrare lì, 9:10. E arrivo a 9:10 da per la torre, io, non sei stato lì. Cazzo, come com'è? Se sei alla chiesetta, devi ascoltarmi ancora per un po'. Non mi arrivi bene anche tu, ho stato a Santiago Ove, lì a Via Gorizia, lì, quella parte lì, Santiago Ove, sono arrivato stamattina, cosa che prima no, nemmeno apprezzato. Ma adesso già sta andando bene. Troppo. Sembra ci sia anche un po' di amplification. Ah, che hai un po' di amplificazione? Ecco, sembra che ci sia, dallo smitter, al respiro si muove solamente. Ma di te sta parlando di me? Ah, di me. Ah, cazzo. No, ora si sente bene, si sente tranquillo, solo che se tu avessi avuto la antenna sarebbe stata tutta una cosa diversa, eh. La sarebbe l'altra, la bui, proviamo subito. Guarda, io dico una cosa, se non la metti sul petto non si conta manco sull'altra. E io cosa ti farà? Tu puoi andare con la gabbettina, la buono vedi? Ma io si visto nel mondo la mano, che va giro. Quanto mi dai, ti faccio attaccare la mia? Quanto mi dai, ti faccio attaccare la mia? Ma ormai ce l'ho la mano qua, lui. Ce l'ho... Aspetta. Non è molto buono i nocchi. Tu mi devi mandare. Andrà bene. Un attimo di quelli la casa in campagna, Luca. Già la puoi attaccare tu. Ma io ci visto a bomba direttiva, 110 euro costa comprare subito, nuova. Avanti, break, è stato un break, avanti. Papa, non la riconosci tu, Luca, buonasera. Buongiorno, Luca, lui ci c'era troppo. Sei tu che vivo, cioè, certo che ti ho riconosciuto Salvatto. Dai quel telefono. Perché ho preso, perché c'ho in me un qualche base che avevo preso. preso su eBay, molto bello, un Top One, e ce l'ho trovato un bel Tom, sempre della stessa categoria di quello, così grande, però UHF, capito? Così faccio la linea, UHF, UHF, nonostante ce li abbia, non è che me ne frega molto, ma grandi, sono belli. Vabbè, le prendi, se non me lo puliziamo, già ti sento, stai sempre comprando e vendendo gli altri. Gaffa, gaffa, compra baracchini e vendi baracchini, che ti conviene, invece di vendere cose che non puoi vendere. Ciao, ragazzi, fai girare, mi fai sia Gianni anche cosa, cioè, non si chiama, fa la sua, sono una sola qui. Avanti, Gianni, dove sei arrivato? Dei giorni scorsi da quando uscivo una schifezza appena poi portate la bene la radio già portate quello tu sei trovato per radio 4 Gianni che capito già fa stufa perché mi siete sovramodulati su Luca poi Luca aspetta la figlia no io già ti sento bene mi siete sovramodulati con Luca e basta tutto lì già ti sento bene solo che quando mi sovramodulati faccio qualcosa, riprendi e fai girare da Gianni e sentiamo le prossime strade. Gianni, Gianni. Dimmi, Fabio. Come sto uscendo? Sto uscendo, sì, qua. Mi sentono le casse del computer. C'è qualcosa che non va, intanto c'è un rientro di RS allucinante se ti senti nel cassa del computer. E poi il segnale qua dovrebbe essere 9 più 60, sì, 9 più 20, oh, Fabio. C'è l'antenna in corto, ho capito. C'è l'antenna in corto, sopra, bisogna salire sopra, abbassarla e vedere cosa è successo. Se il pianale col vento, magari è traffico, si è staccato. Si è così allentato e sta toccando solo il caldo, dopo lo freddo, perché quello effetto lì lo fa solo il PL, solo il cavo. Se l'antenna va bene, a meno che non sia andata l'antenna in corto e quindi ti sta creando quei problemi. Ok, pronto. Se tengo le casse sotto i tracci e quello lì è tutto di arresto, no, non lo deve fare, no? Di tutti i tremolanti che c'è il computer, quello rientra in radiofrequenza, no, non lo devi fare, capito? Quindi, quando va bene, proprio, prima che faccia anche il computer, vuol dire che c'è qualcosa che non vale. Non graffia, capito? Ma appena appena, non molto. perché ci provo. No, si accende dopo, ripeto, lo sai anche tu quando ogni quanto si accende, è perché si accende questa ventolina qua, è un 20 ampere questo, non è, capito, un grosso. E si accende perché la radio sta andando, capito? Dipende da come metto la radio io. Sì, io lo volevo vendere, per uno switching è questo, capito? Se lo provo a fare il cambio anche. Ma è difficile che lo trovi, capito? Perché oramai quell'alimentatore lì non li sta usando più nessuno, infatti ce ne sono parecchi in vendita. Non li sta usando più nessuno, chi ce l'ha lo tiene per la linea, ma non sono alimentatori che oramai con l'uscita dei switching io ho eliminato tutti gli alimentatori a trasformatore, capito? Ne ho 6 di switching, tutti collegati, ognuno ha la propria radio. Capito? Perché sono più affidabili, sono silenziosi, sono a circuito stampato, non hanno tutto questo casino, poi sto cercando di comprare le tutte la radio a 220, capito? Adesso ho preso una linea con UHF ed è 220, l'altra UHF che sta arrivando è lo stesso 220, perché così di utilizzare questi alimentatori e ballo radio, capito? Tutto lì. Vabbè, fai girare, vai Luca, che ti lascio, che ce l'ho a fare, devo anche uscire, no, ma se non combino un cacchio, sono già le 5 e mezza. Faccio anche il computer acceso, adesso mi disconnetto e mi preparo, va. Ci sentiamo semmai stasera, se ne ho voglia, altrimenti alle prossimine. Gappa gappa, ciao Salvatore, Gianni, se ci sia ancora, chiunque fosse in ascolto. Ciao Luca. Ehi, ciao, ciao. Non so Gianni se è già arrivato, penso Gianni. Sì, Salvatore, ho detto. Salvatore, quelle sono schede, e siccome tu sei bellissimo, che sono schede come il computer, al computer è sempre ventilato, io ti consiglio di lasciarla sempre accesa, io ce li ho sempre accesi, anche io ho la possibilità. Ce li ho sempre accesi in modo che la scheda non scaldi e non ti crei problemi, perché ti ricordo che se quegli alimentatori si rompono sono da buttare. Sì, se no faccio tardi. Ah, voleva tagliare qua, non perché ce l'hai tu, ma ce l'ha anche qualche un'altra. Sono alimentatori che non servono a niente. Io ho preso quelli della Nissei, che praticamente li fa la Daiwa, capito? Sono marcati Nissei, ma sono uguali alla Daiwa. Il circuito dentro, tutta la struttura, è tutta Daiwa. Sono marcati Nissei perché la Daiwa aveva fatto praticamente una fusione con questa società giapponese, gli aveva dato la possibilità di marcare gli alimentatori, capito? Però io quelli che ho preso sono della Nissei, che praticamente sono della Daiwa, li avevo pagati 110 euro l'uno, e sono degli alimentatori veramente ad hoc, non ti creano problemi, sono silenziosi, non hanno, quelli della Fayette sono per usare quel baracchino, se l'ho capito. Vabbè, ci sentiamo, dai, non riprendo più. Fatemi andare, ce la faccio tardi. Ciao, alla prossima e buona serata a tutti. Attento Gianni, se vai a spucciare questa piccola stazioncina, cambio. Attento Luca. Oh yeah.